Terzo anello, ad alta voce, Lord Jim, di Joseph Conrad. Mi diressi al tribunale. Non mi aspettavo di rimanere molto impressionato, edificato, di provare interesse o persino paura, benché un sano spavento sia una salutare disciplina di tanto in tanto, almeno finché c'è vita, ma non prevedevo neppure di essere così tremendamente depresso. L'amarezza del suo castigo era tutta in quell'atmosfera fredda e meschina. Il vero significato del crimine è nel fatto che esso costituisce una mancanza di parola nei confronti del consorzio umano. Da quel punto di vista egli era un traditore di prim'ordine, e tuttavia la sua esecuzione era una cosa assai modesta. Non c'era alcun alto patibolo, non c'era il panno scarlatto. Avevano il panno scarlatto a Tower Hill, avrebbero dovuto averlo. Non c'era alcuna moltitudine silenziosa, piena di orrore per la sua colpa e commossa fino alle lacrime dal suo destino, né un'aria resa opprimente dal castigo. La testa del magistrato, di un pallore delicato sotto i capelli ben curati, assomigliava a quella di un invalido permanente che sia stato appena lavato, pettinato e messo a sedere sul letto. Spostò di lato il vaso di fiori, un mazzo rosso vivo con alcuni boccioli rosa su lunghi steli, e dopo aver afferrato con ambo le mani un lungo foglio di carta bluastra ed avergli dato una scorsa, appoggiò gli avambracci al bordo della scrivania e cominciò a leggere forte con una voce uniforme, chiara e neutra. Per Giove, con tutte le sciocchezze a proposito di patiboli e teste che rotolano, vi assicuro che quella fu infinitamente peggio di una decapitazione. Un pesante senso di irreparabilità gravava su tutto, non alleviata dalla speranza del riposo e della sicurezza che segue alla caduta dell'ascia. Queste procedure avevano tutta la fredda implacabilità di una sentenza di morte, tutta la crudeltà di una condanna all'esilio. Fu questo ciò che pensai quella mattina, e tuttora continuo a scorgere un'innegabile traccia di verità in questa esasperata interpretazione di un evento banale. Potete immaginare come ne fossi colpito allora. Forse fu per questo motivo che non riuscivo ad ammettere che fosse irreparabile. Quella cosa continuava a sentirmela dentro ed ero sempre ansioso di ascoltare le opinioni di altri in proposito, come se non fosse ancora stata decisa. Opinioni di singoli individui, opinioni di stranieri per Giove, per esempio di quel francese. La posizione del suo paese fu formulata con la stessa fraseologia fredda e precisa che userebbe una macchina se le macchine potessero parlare. La testa del magistrato era semi nascosta dalla carta, la sua fronte era come un alabastro. Per qualche tempo fui consapevole della voce del magistrato come di un puro suono, ma in un attimo prese di nuovo la forma di parole precise. «Venendo completamente meno ai loro più elementari doveri», diceva. La frase successiva mi sfuggì per un qualche motivo, ma subito dopo. «Abbandonando nel momento del pericolo le vite e i beni loro affidati», proseguì la voce monotona e si fermò. Gli occhi sotto la fronte bianca lanciarono uno sguardo severo da sopra il bordo del foglio. Cercai freneticamente Jim come se mi fossi atteso di vederlo scomparire. Era immobile, ma era al suo posto. Rimaneva seduto roseo e biondo ed ascoltava con grande attenzione. «Quindi», cominciò la voce in tono enfatico. Guardava con la bocca semichiusa, concentrato sulle parole dell'uomo dietro la scrivania. Queste aleggiavano nella tranquillità dell'aula, come trasportate dall'aria mossa dai punkà, e io che ne osservavo l'effetto su di lui, colsi solo alcuni frammenti di quel linguaggio burocratico. «La corte, Gustav Tal dei Tali, comandante, nato in Germania, James Tal dei Tali, primo ufficiale, le licenze vengono revocate». Cadde il silenzio. Il magistrato aveva lasciato cadere il foglio e, piegandosi di lato sul bracciolo della sedia, si mise a discorrere tranquillamente con Brirley. La gente cominciò a muoversi per uscire, altri premevano per entrare e anch'io mi diressi alla porta. Fuori mi fermai e, quando Jim mi superò, diretto al cancello, lo trattenni per un braccio. L'occhiata che mi lanciò mi turbò, come se io fossi stato il responsabile di quello che gli era capitato. Mi guardò come se fossi stato la personificazione del male del mondo. «È tutto finito», balbettai. «Sì», disse lui con voce spessa. «E ora che nessuno...» Liberò il braccio con un movimento brusco. L'osservai da dietro mentre si allontanava. Era una strada lunga e continuai a vederlo per parecchio tempo. Camminava piuttosto lentamente, divaricando leggermente le gambe, come se gli fosse stato difficile mantenere una linea dritta. Poco prima di perderlo di vista, ebbi l'impressione che vacillasse un po'. scorsi Jim appoggiato al parapetto del molo. Accanto a lui tre barcaioli indigeni che si stavano disputando cinque annas facevano un chiasso tremendo. Non mi sentì arrivare, ma si girò di scatto come se il lieve contatto delle mie dita avesse azionato una leva. «Stavo guardando», balbettò. Non ricordo che cosa gli dissi. Comunque si trattò di poche parole ed egli non ebbe alcuna difficoltà a seguirmi in albergo. Mi venne dietro docilmente come un bambino, con aria obbediente, senza manifestazioni di sorta, quasi come se fosse rimasto lì, in attesa che arrivassi a portarlo via. Non avrei dovuto sorprendermi più di tanto di quella sua arrendevolezza. Su tutta la terra, che ad alcuni sembra così grande, ad altri più piccola di un seme di senape, non aveva un posto in cui potesse, come dire, in cui potesse rifugiarsi. Proprio così. Rifugiarsi. Raccogliersi nella sua solitudine. Camminava al mio fianco calmissimo, lanciando occhiate qua e là, e una volta girò la testa ad osservare un pompiere city boy con una giacca a coda di rondine e pantaloni giallastri, la cui faccia nera luccicava setosa come un pezzo di antracite. Dubito, peraltro, che abbia notato alcunché o che abbia sempre avuto la consapevolezza che mi trovavo con lui, perché se non lo avessi guidato e tirato ora a destra, ora a sinistra, credo che avrebbe proseguito dritto fino a fermarsi davanti a un muro o a un qualche altro ostacolo. Lo condussi in camera mia e mi sedetti subito a scrivere lettere. Era l'unico luogo al mondo dove poteva rimanere solo a riflettere senza essere tormentato dal resto dell'universo. Quella dannata faccenda, come l'aveva chiamata lui, non lo aveva reso invisibile, ma io mi comportai esattamente come se lo fosse. Non appena seduto mi piegai sullo scrittoio, come uno scriba medievale raggelato, tranne che per la mano che teneva la penna in un'ansiosa immobilità. Sarebbe giunto anche il momento in cui l'avrei visto amato, stimato, ammirato, in cui intorno al suo nome sarebbero fiorite leggende di forza e di coraggio, come se avesse avuto la tempra dell'eroe. Tutto questo è vero, ve l'assicuro, come è vero che sono qui a intrattenervi con le mie chiacchiere inutili. Da parte sua egli possedeva la facoltà di cogliere in un'allusione l'immagine del suo desiderio e la forma del suo sogno, quella facoltà senza cui al mondo non esisterebbero né l'amante né l'avventuriero. Conquistò grande onore e un'arcadica serenità nella giungla, e per lui ebbero lo stesso valore che un altro attribuisce all'onore e alla serenità conquistate nelle strade delle città. La felicità viene, come dire, delibata in coppe d'oro ad ogni latitudine. La sua fragranza appartiene a te solo, e puoi gustarla con tutta l'ebbrezza di cui sei capace. Ed era di quelli che a questa bevanda si esaltano, come potete capire. Io lo trovai, se non proprio ubriacato, almeno eccitato dall'elisir che si portava alle labbra. Adesso non era arrivato subito. C'era stato, come sapete, un periodo di prova fra i terribili fornitori marittimi durante i quali aveva sofferto, ed io ero preoccupato di avere, diciamo così, avuto fiducia in lui. Non sono certo di esserne del tutto rassicurato, neppure adesso, dopo averlo osservato in tutto il suo splendore. Fu così che lo vidi per l'ultima volta, al centro di un grande alone di luce. Dominatore, e tuttavia in perfetta armonia con l'ambiente che lo circondava. Con la vita delle foreste, con la vita degli uomini. Confesso di esserne rimasto impressionato, ma devo ammettere che dopo tutto non è un'impressione durevole. Era protetto dal suo isolamento, unico esemplare di una stirpe superiore a stretto contatto con la natura che concede generosamente rispetto e fedeltà a coloro che l'amano. E tuttavia non riesco a fissarmi davanti agli occhi l'immagine della sua salvezza. Lo ricorderò sempre come lo vidi attraverso la porta aperta della mia camera, mentre prendeva troppo a cuore le conseguenze di quel suo errore. Non vedevo chiaro in lui, se così posso dire. Non vedevo chiaro in lui. E sospetto che egli stesso non ci vedesse chiaro. C'erano la sua squisita sensibilità, i suoi sottili sentimenti, le sue belle aspirazioni, una sorta di egoismo idealizzato e sublimato. Era, se me lo consentite, un uomo molto fine e molto sfortunato. Una natura un po' più grossolana non avrebbe sopportato la tensione. Sarebbe dovuta venire a patti con se stessa, con un sospiro, un grugnito, o persino con un sogghigno. E una più grossolana ancora sarebbe rimasta nella sua invulnerabile ignoranza e in un'assoluta mancanza di interesse. Ma egli era troppo interessante o troppo sfortunato per essere gettato in pasto ai cani. E io pensavo proprio a questo, mentre rimanevo seduto con la faccia sul foglio di carta, mentre lui lottava e ansimava disperatamente, sentendosi mancare il respiro, in quel modo terribilmente segreto, lì. Nella mia stanza. Lo sentii quando si precipitò fuori sulla veranda, come per buttarsi sotto, e non lo fece. Lo sentii sempre più forte per tutto il tempo in cui rimase fuori, debolmente illuminato sullo sfondo della notte, come sulla riva di un mare cupo e senza speranza. Un rombo forte e inatteso mi fece alzare la testa. Un rumore parve allontanarsi, ma improvvisamente un bagliore penetrante e violento cadde sulla superficie cieca della notte. Quei lampi prolungati e abbaglianti sembrarono durare per un tempo lunghissimo. Il brontolio del tuono aumentava costantemente mentre io guardavo la sua figura che spiccava nera e distinta, solidamente piantata sulla riva di quel mare di luce. Nel momento di massima luminosità, l'oscurità balzò di nuovo in avanti con uno schianto assoluto ed egli scomparve totalmente davanti ai miei occhi accecati, come se si fosse disintegrato. Nell'aria passò un soffio devastatore. Mani furiose parvero strappare i cespugli, scuotere le cime degli alberi là sotto, sbattere le porte, frantumare i vetri delle finestre lungo tutta la facciata dell'edificio. Entrò chiudendosi la porta alle spalle e mi trovò chino sul tavolo. La mia improvvisa ansietà per quello che avrebbe detto era enorme, al limite del terrore. «Posso avere una sigaretta?» chiese. Spinsi la scatola verso di lui senza sollevare il capo. «Voglio del tabacco». Borbottò. Fui preso da una grande allegria. «Un momento», borbottai amabilmente. Fece qualche passo qua e là. «È finito», lo sentii dire. Un boato solitario e lontano arrivò dal mare come un colpo sparato da una nave in pericolo. «Il monsone è arrivato presto quest'anno», osservò in tono casuale alle mie spalle. Ciò mi incoraggiò a girarmi e lo feci non appena ebbi finito di scrivere l'indirizzo sull'ultima busta. Fumava avidamente in mezzo alla stanza e pur avendo sentito che mi stavo muovendo rimase per qualche tempo così con la schiena voltata. «Insomma, me la sono cavata a buon mercato. disse girandosi all'improvviso. Mi è costato qualcosa, non molto. Chissà che cosa avverrà adesso. La sua faccia non tradì alcuna emozione e appariva solo un po' rabbuiata e gonfia, come se avesse trattenuto il respiro. Sorrise come controvoglia e continuò, mentre io lo fissavo senza parlare. Grazie comunque. La sua stanza è una bella risorsa per uno un po' malandato. Pensavo al modo migliore per riprendere il discorso con lui. Non volevo che mi trattasse un'altra volta con sufficienza, quando scoppiò in una risatina. Praticamente un vagabondo ora. Teneva fra le dita la sigaretta accesa. Senza un solo... Spiccava le parole con lentezza. E tuttavia... Tacque. La pioggia cadde con raddoppiata violenza. Un giorno o l'altro è inevitabile che mi capiti una qualche occasione per riprendermi tutto. Deve essere così... Sussurrò con voce chiara, fissandomi furioso le scarpe. Non sapevo che cosa desiderasse tanto riconquistare, che cosa avesse così terribilmente smarrito. Forse era una cosa così grande che era impossibile descriverla. Mi guardò con aria interrogativa. Forse se vivrà a lungo, borbottai fra i denti con ingiustificata animosità, ma non ci conti troppo. Per Giove, sento che nulla potrà mai toccarmi. disse con un tono di cupa convinzione. Se non sono stato abbattuto da questa faccenda, non temo certo che possa mancarmi il tempo per venirne fuori e... Alzò lo sguardo. Mi colpì il fatto che sono quelli come lui a formare il grande esercito degli sbandati e dei vagabondi, un esercito in marcia verso i bassi fondi della terra. Non appena avesse lasciato la mia camera, quel piccolo rifugio, anche lui sarebbe entrato fra le sue file e avrebbe cominciato il viaggio verso il baratro senza fondo. Io almeno non mi facevo illusioni, eppure io stesso, che qualche momento prima ero stato così sicuro della forza delle parole, ora avevo timore a parlare, proprio come chi non osa muoversi, per paura di perdere il precario appiglio a cui si è aggrappato. Era la paura di perderlo che mi faceva tacere, perché fui assalito dal terrore, improvviso e violento, che se lo avessi lasciato scivolare nell'oscurità, non me lo sarei mai perdonato. Un attimo dopo, era tornato ad essere un caro ragazzo in difficoltà come prima. Gettò via la sigaretta. «Addio!» disse, con l'improvvisa fretta di chi ha perso troppo tempo e deve affrettarsi perché l'attende un pressante impegno. E quindi per qualche attimo rimase perfettamente immobile. L'acquazzone cadeva forte e ininterrotto come un diluvio devastante, con il rumore di una furia squassante e inarrestabile che evocava alla mente l'immagine di ponti che crollano, alberi sradicati, frane sulle montagne. Nessuno avrebbe potuto resistere a quell'immane torrente precipitoso che sembrava travolgere e turbinare contro la quieta penombra in cui avevamo trovato un precario rifugio, come in un'isola. Dal foro della grondaia uscivano urli, rantoli e gorgoglii, odiosa, spruzzante imitazione di un uomo che si dibatte in acqua per non annegare. «Sta piovendo», protestai, «e io, pioggia o sole?» cominciò a dire bruscamente, ma si arrestò e andò alla finestra. «Un vero diluvio», mormorò dopo un po'. Appoggiò la fronte al vetro. «È anche buio, sì, è molto buio», dissi. Girò i tacchi attraverso la stanza. Aveva già aperto la porta che dava sul corridoio quando io balzai dalla sedia. «Aspetti!» gridai. «Voglio che lei...» «Non posso pranzare un'altra volta con lei questa sera», mi disse in tono aggressivo, con una gamba già fuori dalla porta. «Non ho la minima intenzione di invitarla!» urlai. Ritirò allora il piede che era fuori, ma rimase sospettosamente sulla soglia. Senza ulteriori esitazioni lo supplicai di non essere assurdo, di entrare e chiudere la porta. Christian Jansante ha letto Lord Jim di Joseph Conrad. Riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.